They don't play the song on the radio. Sisterhood is blooming. Eccoci qua, prima puntata del nuovo ciclo oppure settima puntata del vecchio ciclo, non si sa. Come la volete vedere, sempre di cicli si parla. Sisterhood is blooming in studio, Donna Sonica e la music. Vi ricordo subito i riferimenti prima che me ne dimentichi. Se ci volete squillare 06 49 17 50. Siamo a chiudere lo spazio del martedì femminista e lesbico autogestito, quindi mfla.noblogs.org. Invece le nostre playlist, i nostri podcast e altre notizie che riguardano noi e quello che facciamo noi, twowomenshow.wordpress.com. Esatto. E poi gli altri riferimenti dopo. Esatto. E vogliamo dire qualcosa della nuova sigla? Vogliamo dire qualcosa della nuova sigla? Amanda Palmer, Map of Tasmania. Di Amanda ne abbiamo già parlato tantissime volte, e ancora lo faremo perché secondo me è un'artista geniale, ricchissima. Ma partiamo subito perché questo mese ci sono state un sacco di uscite. Gli album anche abbastanza attesi, poi dipende dai gusti. Per quanto mi ricordo che il 26 settembre è uscito l'ultimo album in Zola Jesus. C'è stata pure Tori Amos. C'è stato l'album Tori Amos, il disco di Zola Jesus si chiama Conatus e lei sarà presto in tour, quindi probabilmente anche in Italia per la Southeranian Transmission, che è un'etichetta che ha prodotto anche Grey Ocean delle Coco Rosi, wow. Laura Gibson, Emma, quindi insomma molte artiste interessanti di cui abbiamo anche parlato qui in trasmissione. Io passerei subito alle cose serie, sì. Alla musica. E è uscito anche in questo momento, è uscito anche l'album di Laura Marling, che è una 21enne inglese straordinaria, dotatissima, che ha già alle spalle tre album, insomma un EP e due album full length album, come si dicono. Il primo si chiamava Alice I Can Swim e il secondo è Speak Because I Can. L'ultimo, appunto quello di cui vi stiamo parlando, si chiama A Creature I Don't Know, è uscito il 12 settembre, ed è uscito per la Cooperative Music, che è un'associazione di etichette indipendenti britanniche, tra cui ce ne sono insomma alcune anche piuttosto note che ci piacciono molto, come la Wichita Records, la Moshi Moshi, la City Slang. Quindi insomma basta che andate a cercare Cooperative Music su internet, troverete molte etichette e poi anche le artiste che loro propongono. Io ho già parlato un sacco di Laura Marling, ho scritto un post, ho fatto insomma un po' di interventi, quindi non sto qui a riempirvi di chiacchiere. Il pezzo che vi faccio ascoltare del suo ultimo album, che è un album molto folk, molto intenso e molto maturo, considerato che lo scrive, lo canta e lo suona insomma un artista di soli 21 anni. L'album si chiama Creature I Don't Know, lei è Laura Marling e il pezzo si chiama The Beast. Where did our love go? You will never know. How did you get home? You will never know. Did you catch yourself in the mirror? It's a sight I understand. You consider it all for a second and put it down to sleight of hand. You know I've been running round for hours. Calling my Egyptian blood to bear me flowers. Darling Sophia, goddess of power. Instead I got the beast, and tonight he lies with me. Tonight he lies with me. Tonight he lies with me, and here come the beast. You're okay now, I suppose. You're not pulled by the rope. I'm pulled by the pull of my throat. I'm pulled by. You can't bear to see your old lady laying È talentuosissima questa ragazza, cioè, ha un timbro, ha cambiato proprio timbro dall'altro disco comunque. Sì, tra l'altro questo disco, insomma, è un disco in cui lei è riuscita a fare un po' tutto da sola, anche da un punto di vista degli arrangiamenti, e, diciamo, è diventata maggiorenne anche da questo punto di vista, ed è veramente un disco bellissimo. Complimenti. Io vi parlo di altre due artiste talentuosissime, loro si chiamano Tao e Mira. Hanno dei cognomi assurdi, quindi perdonatemi perché faccio tanto degli strafalcioni. Allora, Mira Yom Tom Zeitlin, Pennsylvania, Philadelphia. Praticamente sia Tao che Mira hanno dei progetti che non hanno a che fare appunto con il loro duo, sono in mezzo, insomma, a tanti altri progetti musicali. Si sono incontrate nel 2010, hanno cominciato a suonare insieme al Noise Pop Festival in San Francisco. Da lì poi è venuta fuori l'idea e la voglia di fare un disco insieme, un tour insieme. Questo disco, che è uscito nel 2010 comunque, non è recentissimo, è stato prodotto tra l'altro da Toon Yards, di cui abbiamo parlato, abbiamo fatto ascoltare dei pezzi molto carini. E la cosa interessante di tutte e due queste ragazze è che per esempio Mayra comincia a suonare la sua prima canzone quando ha 4 anni, cioè delle piccole enfant prodige, e comincia a suonare in giro quando ne ha 12, e lo stesso Tao comunque a 14 anni sta già in giro e suona con vari gruppi, tra cui i The Get Down, Stay Down, che sono molto famosi come alternative folk group. Quindi niente, c'è solo da ascoltarle perché l'arrangiamento è particolare e anche le loro voci. E ci ascoltiamo Tao e Mayra con il pezzo che si intitola Rubies and Rock per l'etichetta Kill the Rock Stars. I had it all, yes I believe, everything I was holding effortlessly was made out of rubies and rocks, rocks, rocks. Diamonds and stones, stones, stones, with pearls I've been painted myself a home, home, home. Una bella orchestrazione. Mica male, orchestrazione fiati. Ciao, e Mayra, mi sembra che ne avevamo già parlato però nelle scorse puntate per qualche altra collaborazione, forse Juniors effettivamente che dicevi prima. Sì, anche Juniors. Perché loro suonano, come dicevi, insomma, anche per conto loro. E noi ci stiamo dedicando in questa puntata soprattutto alle nuove uscite, alle cose che abbiamo ascoltato in questo ultimo mese di settembre, che ci sono piaciute. E io vi racconto di Sam Vincent, che insomma è un personaggio, anche lei molto giovane, anche lei ha cominciato a suonare la chitarra da piccola, è una polistrumentista americana, ed è uscita nel 2007 con l'album Marry Me, che a me è piaciuto moltissimo ed è stato insomma anche abbastanza acclamato sia dalla critica che dal pubblico, e quindi l'ha lanciata in vari tour in giro per il mondo, anche in Europa. E a metà settembre è uscito questo terzo album, perché tra i due ce n'è un altro che a me è piaciuto di meno, quindi tendo a dimenticarlo, che si chiama Strange Mercy, e in questo momento in tour negli States per promuovere l'album, e sarà in Europa alla fine di ottobre, quindi insomma è prevista per ora un'unica data a Milano, speriamo che per strada si aggiunga qualcosa anche dalle nostre parti. Lei è Sam Vincent, l'album si chiama Strange Mercy e il pezzo che vi faccio ascoltare è Surgeon. Thank you. questa ovviamente non era Surgeon, ma era Strange Mercy, che è il pezzo che dà il titolo all'album. Però insomma, Surgeon ce l'abbiamo sottofondo. St. Vincent lo stesso. Allora, la music. Allora, che io ci passi? Rimarrei sempre sull'elettronica, però in questo caso elettronica strumentale. Vi parlo di un artista che ho visto quest'estate a un roof concert, perché anche qua a Roma, io non lo sapevo, ma da più di 10 anni c'è una terrazza. Non vi dico dove è, se no l'anno prossimo anzi ve l'andate a sarà cercare, un rave party, non è un cercare. E praticamente da 10 anni si tiene questo festival ogni domenica e fanno un roof concert al tramonto con artisti soprattutto che hanno a che fare con l'elettronica, e c'era una ragazza, il suo nome d'arte è Lisa Lu con due U. In realtà lei si chiama Elisabetta Luciani ed è una compositrice romana che ha cominciato la sua carriera musicale come sassofonista, facendo soprattutto jazz e fusion, e poi dal 2007 ha deciso di cambiare gli orizzonti musicali, sono cambiati anche i suoi gusti, e ha cominciato a comporre musica ambient ed elettronica. E lo scorso anno Elisabetta Luciani, quale facciamo veramente un applauso, ha aperto la sua etichetta insieme a Adriano Bossola, si chiama Net Label, ed è uscito il suo ultimo album, dal quale vi farò sentire i pezzi, che si chiama The Time of Waiting, è un EP in realtà. E Elisa suona soprattutto appunto in situazioni dove ci sono performance di video art, digital art ed elettronica, e le auguriamo veramente che cominci a farsi conoscere anche al di fuori della realtà romana italiana. E la salutiamo perché si sta ascoltando, e ci ascoltiamo il suo pezzo che si intitola 22 Mars, io penso sia in tedesco, ma il tedesco non me lo ricordo, quindi questa è Lisa Lu. Thank you. Elisa Lu, sì, di cui vi abbiamo linkato il sito, così potete magari ascoltarla e conoscerla meglio se vi piace, sul nostro spazio gruppo Facebook, yes, che si chiama Sister is Blooming, molte di voi lo conoscono. Vi ricordiamo anche il nostro Twitter account, che è Sisters on Air, tutto attaccato, e il numero per squillarci e chiamarci qui in diretta, che è 0649 1750, qui a Radio Onda Rossa. La donna degli annunci! E io, solo perché me li scrivo, me li ricordo. E io rimango proprio sulle cose basilari oggi, mi sono proprio, non mi sono sprecata tantissimo, sono usciti tanti dischi, li ho ascoltati, alcuni mi sono piaciuti molto come Laura Marling e St. Vincent, altri mi sono piaciuti meno, per esempio Tori Amos non mi ha, mi ha appassionata tantissimo, lei ha fatto una sorta di ciclo classico riarrangiato, quindi sì, ha preso pezzi di Satie, di, insomma, vari Chopin eccetera, quindi riarrangiandoli e proponendoli anche, insomma, con dei testi, con dei testi che ha scritto lei, quindi. Però io non sono una fan di Tori Amos, se questo bisogna dirlo, è un po' pregiudicante. No, a me piaceva molto invece prima, musicalmente è suonato in modo magistrale, per carità, poi ci sono degli arrangiamenti orchestrali e vorrei pure, cioè, è un'opera rock. Però ancora non mi è arrivato, può essere, sì, che sembra se ancora se un po' persa tra il pop e quello che invece proponeva, sì, prima, che era, insomma, comunque una bellissima, una musica veramente di qualità. E allora io rimango sul semplice, è uscito il 30 settembre Metal, che è il quarto studio album di Feist, di, yes, Leslie Feist, e è uscito oggi, il 4 ottobre, ma ovviamente noi abbiamo anteprime su anteprime qui con rubato i nostri potentissimi mezzi. In realtà c'è anche un quinto album di Feist che si chiama Open Season del 2006, ma in realtà è una raccolta di remix dei suoi pezzi, quindi insomma non è proprio un vero e proprio album. E lei è nata, tanto per dirvi una, potremmo dire tante cose, abbiamo detto anche altre cose di Feist, ha vinto premi su premi quando è uscito The Reminder, l'artista dell'anno, la cantautrice dell'anno, la bella donna, tutto quello che si poteva vincere, l'ha vinto tante lei, qualità, Grammy eccetera eccetera. La cosa che mi intriga sempre, che ogni volta che leggo la sua biografia, è che è nata in un posto che si chiama Amherst, o Amherst, non so come si pronunci, che è in Canada, che è veramente un posto lontano da tutto. Tipo dove vai tu ogni tanto. Vi consiglio di andare a cercare Amherst su insomma su Google, dove vi pare, e vedere dove si trova, cioè rispetto, che ne so, una grande città del Canada che può essere Toronto o un'altra città, è veramente sperduto, e ha partorito questa meravigliosa artista. L'album si chiama Metal, è uscito oggi, lei si chiama Feist, e il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, How Come You Never Go There. So lonely, I went up to the window, lightning banging on the cymbals. I leaped into the night, came storming to your eyes. My horse had worked the fields too long, my bear had lost his innate calm. It's true enough, we're not at peace, but peace is never what it seems. Our love is not the light it was when I walk inside the dark. I'm gone. Why we look for where it went? It's only echoes in the melody of. You're an instrumental too. Che dire, brava, sempre brava. Io non vedo l'ora di vederla dal vivo perché non l'ho mai vista. Brava, elegante. Questo album, secondo me, se vi interessa la mia opinione, non è eccezionale, però è bello. Che ci può stare, insomma, intanto si può anche fare. Anch'io l'ascoltavo ieri notte, appena sono riuscita ad averlo, e non trovo particolari novità, insomma, però sono dei bellissimi arrangiamenti, anche molto minimal, però perfetti, quindi sì. Insomma, è molto bello da ascoltare. E adesso invece io passo a parlarvi di Kimbra Johnson. Già mi fa paura quando vedo quando è nata nel 1990. Cioè, ce l'hai con noi stasera, è assurdo, cioè tutte le bambine prodigio. Nata in Nuova Zelanda a Hamilton e poi è andata a vivere a Melbourne in Australia. E niente, lei è un'altra bambina prodigio perché è andata alla scuola di musica quando era piccola, mandata dalla madre, e ha vinto il secondo posto a 14 anni nel 2004 con una canzone, insomma, quindi è stato un merito che poi l'ha fatto continuare la musica. E niente, quindi è uscito il suo primo disco che si chiama, questa è una pronuncia assurda, Vows, scritto V-O-W-S, e il singolo che vi faccio ascoltare, che ha anche un video bellissimo, lo trovate su YouTube, si intitola Settle Down. E per ora lei è in tour soltanto in Australia, speriamo che cominci ad andare in Europa e così potremo vederla anche noi, ed è stata promossa da una compagnia di management musicale che si chiama Forum 5, che è sita a Melbourne in Australia, che sta aiutando tutti i nuovi talenti che vengono dalla Nuova Zelanda e dall'Australia a farsi conoscere nel mondo, quindi speriamo che anche qua cominciamo a muovere un po' le situazioni. Vi faccio sentire Kimbra con Settle Down. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. We can settle at a table. A table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We'll call her Nebraska. Nebraska Jones. She'll have your nose. Just so you know. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Vickers. I saw her with you Monday morning, small talk in all the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far from the city lights and sounds deep to the dark. Ecco, 21 anni, tanto così. Vabbè, un buon inizio, devo dire la verità. Io faccio una penitenza alla memoria, all'affetto. Sì. E nel senso che... Ho paura. No, nel senso che parlo di una band che in realtà, insomma, non mi ha tanto sorpresa, non sono stata straordinariamente entusiasta del loro album. Loro sono le Wild Flag. Le Wild Flag, insomma, sono praticamente... costole di gruppi storici del Riot Movement, insomma del rock al femminile, come le Slater Kinney, come Helium, come Quasi, come Excuse 17, insomma, potremmo continuare la lista per un bel po', visto che ne fanno parte Carrie Brownstein, Mary Timony, Rebecca Cole e Janet Wise, quindi insomma veramente quattro musiciste che hanno suonato un po' in tantissime band, un po' in tutti i gruppi, e che hanno fatto la storia del rock al femminile. Le Wild Flag hanno sono nate in un modo interessante. Vabbè, Janet Wise e Carrie Brownstein, ex Slater Kinney, insomma, hanno continuato a fare delle cose insieme in questi anni, dalla fine di quella mitica band. Però insomma, la cosa divertente è che loro hanno cominciato a parlare della band, hanno cominciato a parlare dei pezzi prima ancora che la band fosse vera nella realtà, insomma, l'avevano progettata e già ne parlavano. Questo non porta bene. Hanno creato un gruppo su Facebook, insomma, hanno annunciato il loro tour in America, insomma, alla fine dell'anno scorso e all'inizio di quest'anno, parlando, insomma, della loro musica, che in realtà non era ancora disponibile. Quindi per sentire la loro musica e per capire di che cosa si trattasse, dovevi andare live ad ascoltarle. Certo. Insomma, è quello che moltissime fan hanno fatto. Io l'avrei fatto volentieri, ma insomma, erano un po' dall'altra parte della terra. Però l'album è ascoltabile, divertente, è un po' quel rock a cui ci hanno abituato le Slater Kinney, insomma, sia come struttura dei pezzi e sia, insomma, come sound. Però io ho troppa passione per Cherry, certo. E niente, ve le faccio ascoltare. Loro sono le Wild Flag, il pezzo che ho scelto per voi si chiama Future Crimes. Future crimes, lighting my Voglio questo synth con questo suono qui. No, bellissimo. Bellissimo. E rimaniamo sempre sul genere, però andiamo in Olanda. Vi parlo di Betty Servert, scritto proprio come ve lo pronuncio. E il loro nome loro prendono nome da I servizi di Betty, che è praticamente un libro scritto da appunto questa tennista olandese Betty Stove, che è arrivata a Wimbledon. E il gruppo si fonda soprattutto sulla cantante, che è cantante e chitarrista, che si chiama Karen Van Dyke, che è nata in Canada da parenti olandesi e ha sempre parlato inglese, ed è riconosciuta per il suo fraseggio molto limpido e chiaro, le parole si comprendono subito, diciamo. Loro si sono insomma formati negli anni 80, nell'86 più o meno, e nel 1990, grazie insomma ai successi ottenuti con i loro dischi, hanno formato l'etichetta discografica Palomine, che è appunto una piccola indie label che insomma con la quale ancora si autoproducono, e vanno in tour soprattutto in Olanda. Se andate sull'agenda concerti dei gruppi olandesi, loro suonano dovunque in Olanda. E una cosa particolare, carina, che dopo aver avuto parecchi premi con i loro primi album, hanno aperto addirittura i concerti di Jeff Buckley. Quindi ora ve li faccio sentire, sono Betty Servert, il pezzo si intitola Deny All. Olandesi finalino che riescono a fare. Non mi sembrava da te questo pezzo. Ma perché sono stata ad Amsterdam, con mi ho sentita ad Amsterdam e ho detto mi porto un po' di Amsterdam, anzi saluto tutte le persone che ho conosciuto, tra cui le ragazze che fanno Pink Radio ad Amsterdam, Natasha, scusa, mi è venuto in mente adesso, Natasha, Puck, poi Anna, Natalia e Rosy. Ciao. Salutiamo la Pink Radio di Amsterdam. E io l'ultimo pezzo per questa sera, visto che insomma cerchiamo anche noi di stare nei tempi, che è sempre cosa buona e giusta, yes, quando si sta in radio, e il pezzo di un artista a cui io tengo molto, ve ne ho già parlato tempo fa, lei si chiama My Brightest Diamond, questo è diciamo il nome del suo progetto da solista e della multistrumentista, polistrumentista come si dice in italiano, che è sempre meglio usarlo l'italiano, e cantautrice che risponde al nome di Shira Worden. E l'album uscirà, anche questo è un'anteprima, uscirà il 18 ottobre e si intitolerà All Things Will Unwind per la Smarty Kitty Records, che è una bellissima etichetta indipendente, molto molto attenta e molto carina, e che ci propone sempre degli artisti e delle artiste interessanti. Lei insomma, Shira è un personaggio strepitoso, me ne ho parlato, andate a vedere dal vivo, ha suonato con un sacco di musicisti, ogni tanto la sua vocina un po' come alcuni personaggi tipo Anthony, che lo ritroviamo negli album della qualunque, anche lei insomma ogni tanto c'è, ma veramente lei se lo può permettere perché ha una voce strepitosa. E io mi permetto anche di fare una piccola dedica su questo pezzo, che appunto sarà il primo singolo che uscirà da questo, per questo album, che si chiama Be Brave, che significa sì, coraggioso, ed è in sostanza nel testo Shira che parla a se stessa e si fa coraggio e si dà coraggio per affrontare le cose e soprattutto per cambiare se stessa e le cose intorno a lei. E siccome due nostri amichetti stanno per avere un bambino, mi sembrava bello, sì. I nostri amichetti Monica e Fabrizio, da alcuni detto Cristoforo, insomma stanno per avere un bambino, mi sembrava una cosa carina, un bel incoraggiamento, un bel messaggio da dargli con My Brightest Diamond. Be brave. It's is going to hurt. Be brave, dear one. Be it changed or be undone. Be brave, dear one. Be it changed or be undone. Now be brave, dear one. Be it changed, be undone. Be brave, dear one. Be it changed, be changed, be changed, Non vedo l'ora di ascoltarlo tutto, che poi tra l'altro esce il martedì quando faremo la prossima puntata, quindi è perfetto. Magari come sigla finale. Esatto. Facciamo ascoltare qualche altra cosa. E chiudiamo con un artista che sarà in concerto all'Auditorium qui a Roma il 17 di ottobre. Lei si chiama Olof Arnalds, è stata tra l'altro membro dei MOM ed è una cantante e scrittrice islandese che appunto è diventata famosa soprattutto per la collaborazione con il gruppo Electro dei MOM, e scusate la pronuncia, era proprio già la bocca impastata, e ha fatto due album, il primo di debutto nel 2007 e l'ha fatta conoscere diciamo al pubblico più esteso, e il secondo album è stato realizzato a settembre dell'anno scorso, però ci ha messo un po' ad arrivare fino a noi, e soprattutto è noto appunto questo album perché c'è un brano in collaborazione con Björk, ovviamente poi in Islanda si aiutano tutti fra di loro, e sono pochi, esatto. Fanno mucchio. E quello che volevo dirvi era che sì, lei incide appunto per questa etichetta che si chiama la 12 Tonar, che è nasce come negozio di dischi a Reykjavik e poi diventa un'etichetta indipendente dal quale sono usciti, invece di chiudere aperto, come succede, esatto, dalle nostre parti, comincia come negozio di dischi e poi diventa un'etichetta, esatto. E questo negozio poi è diventato un punto d'incontro per i musicisti come Björk, i Sigur Rós, i MOM, quindi insomma abbiamo detto tutta la musica islandese. E il pezzo che vi faccio ascoltare è quello più famoso diciamo di lei, che si sente anche già in giro qua in Italia, si chiama Crazy Car, e lei in questo pezzo duetta con un artista che parte da fotografia, installazioni, scrittore, canzoni, fa di tutto. Lui si chiama Ragnar Kynjanstad, non me ne voglia, però veramente sono dei nomi impronunciabili, e quindi ci sentiamo il pezzo Crazy Car. Non dimenticatevi, se vi interessa, Roma il 17 ottobre all'Auditorium, lei è Olof Arnalds. Dearest, dearest, here's a song. Beautiful, so bright and young. You got mojo, you got soul. Full of colors, pearls and poetry. Climbing over cemetery walls, watering the sea. Fire is fire, that is all. Don't go in the crazy car. Stream of gold from your guitar. Good old Lolita. You're a diva, you are strong. Baby, what is wrong with vanity? Why not just embrace it? A pop star is a pop star. Don't go in the crazy car. Thank you. please beware of the crazy car. Please don't go to America. Here's your home, here are your friends. Waiting still until this ends. Please, please think inside the box. Only for a moment. We have made it circle shape. Questo per chiudere. La ninna nanna. Morbide. Esatto. Le sisters vi danno appuntamento fra 2 settimane. Che vi possiamo dire? Il 18 ottobre alle 22 circa. Su Radio Onda Rossa, MFLA dalle 17. E... Viva le donne sempre. Che ci ascoltiamo e come ci si ascoltiamo casinale. Adesso Nadea, di cui vi avevamo parlato prima dell'interruzione estiva. Abbiamo fatto sentire il suo singolo Odile. 2 settimane fa è uscito il suo album. Adesso lei è in tournée in Spagna, Belgio e Francia fino a gennaio del 2012 e ancora non si parla d'Italia. Speriamo di vederla qua. Vi volevo dedicare questo pezzo a Checco e Dave e capiranno perché dal titolo che è I Burn the Cow Boy at the Melbourne Airport, cioè ho dato fuoco a un cowboy all'aeroporto di Melbourne. Questa è la sigla finale, le sisters vi salutano e Sisterhood is Blooming. Ciao a tutte. I burned a cowboy at the Melbourne Airport.